www.redigio.it e la storia continua. La chiesa della parrocchia dedicata ai santi martiri anaoniani che compie 100 anni, siamo nel 2010, e i legami del Tempio con la battaglia di Legnano, i recenti restauri e un programma anche dei festeggiamenti. La parrocchia dei Santi Martiri, guidata da Don Pier Giorgio Colombo, parroco dal 1 luglio del 2006, si prepara ai festeggiamenti per il centenario della sua fondazione. Fu infatti ultimata 100 anni fa, nel 1910, e consacrata il 19 settembre dello scorso anno. La chiesa d'oltrestazione fu fortemente voluta dagli abitanti del quartiere. Nel 1900 fu inaugurato il monumento di Enrico Butti, celebrativo della battaglia medievale combattuta dai comuni lombardi contro Barbarossa, e ciò riaccese l'interesse e l'orgoglio dei legnanesi nei confronti della propria storia medievale. La chiesa fu così dedicata ai santi martiri cristiani Sisinio, Martirio e Alessandro, le cui reliquie erano custodite nella chiesa milanese di San Simpliciano, dove era sepolto Ariberto da Entimiano, il vescovo, che donò ai milanesi la croce lobata del Carroccio e incitandoli alla rivolta contro Federico Barbarossa. La proposta fu in seguito sostenuta dall'arcivescovo di Milano, cardinale Andrea Ferrari. Solo l'acquisto di un lotto del terreno della ditta Angelo Ferrario in via Novara all'angolo con via Venezia, e questo permise di concretizzare un desiderio tenuto vivo per 30 anni. Don Luigi Castelli, l'allora parroco di San Magno, affidò il progetto a Don Enrico Locatelli, parroco di Vergiate. La prima pietra fu posta proprio dal cardinal Ferrari il 4 settembre del 1904, e la nuova chiesa, ultimata nel 1910, fu da lui consacrata il 19 settembre dello stesso anno. Pochi mesi più tardi, il 24 maggio 1911, fu dichiarata parrocchia e il primo parroco fu Don Luigi Castelli, dato che nel frattempo Don Eugenio Girardelli era stato nominato prevosto di San Magno. La chiesa, così come progettata da Locatelli, era costituita da una grande navata centrale con soffitto piano sorretto da 42 colonne, di cui 18 in granito e 24 in mattoni speciali appoggiati su mensole. L'impianto architettonico del Tempio è a tre navate affiancate da altrettante cappelle per lato. L'interno era stato decorato nella parte alta con fregi e coloriture bizantineggianti eseguite dal pittore legnanese Darvino Führer e dal veresino Attilio Bizzozero. Negli anni 50 la facciata della chiesa fu rifinita in cotto e marmo bianco. Nell'altare di destra, il pittore Matteo Meneghini affrescò una pala che rappresenta i tre santi con uno sfondo che ricorda la Val di Non, dove furono uccisi, e un volo di angeli in un cielo con nubi. Questo altare fu inaugurato il 29 maggio 1919, a commemorazione del martirio dei santi patroni della parrocchia. Ai lati dell'altare sono collocate due lapidi con i nomi dei parrocchiani morti nella prima e seconda guerra mondiale e i nomi dei comuni uniti nella Lega Lombarda. I lavori per la realizzazione del campanile iniziarono invece nel febbraio del 1920. L'opera fu portata a termine nel giro di 2 anni. Alla fine degli anni 60, l'interno della chiesa subì dei rimaneggiamenti e la parte bassa della chiesa fu tinteggiata con colori chiari, eliminando alcune decorazioni. Anche le colonne furono riverniciate, togliendo loro la tinteggiatura marmorizzata che le rendeva caratteristiche. Gli ultimi lavori erano stati eseguiti nel 1974, anche per adeguare il tempio alla nuova liturgia. Scompare la balaustra e viene sostituito l'altare in legno, sistemato nella cappella dedicata alla Madonna di Lourdes, con uno più moderno in marmo. Nel 1997 la parrocchia ha celebrato 2 anniversari significativi: il 16° centenario del martirio dei santi patroni e il 60° della morte del primo parroco Don Luigi Castelli, i cui resti riposano nella stessa chiesa dal 17 settembre del 1993. I recenti restauri. I lavori di restauro, iniziati nell'autunno del 2007, sono stati affidati all'impresa e studio tecnico restauri d'arte GF Marcato, SRL di San Giuliano Milanese e in parte finanziati dalla Fondazione Ticino Lona. Parte cospicua del restauro ha riguardato la messa in sicurezza e il consolidamento del cannucciato del bellissimo soffitto ligneo della chiesa riccamente decorato. Il recupero materico di quest'ultimo ha previsto il parziale rifacimento delle zone totalmente rovinate o irrecuperabili e un intervento di consolidamento strutturale totale dell'estradosso tramite i sistemi di rinforzo e riaggregazione del cannucciato. Il restauro conservativo artistico dell'intradosso della navata centrale ha invece riguardato l'intonaco decorato e dipinto, e quest'ultimo è stato sottoposto ad una pulizia graduata ed eseguita da un accurato consolidamento della materia per fare riaderire la pellicola pittorica all'intonaco di supporto e recuperando la necessaria unità di lettura dell'intero apparato decorativo. Durante i lavori sono stati valorizzati i 3 affreschi raffiguranti i Santi Martiri, la Madonna Immacolata e l'Eucaristia, che sovrastano la navata centrale. I 3 affreschi che sono ora sapientemente illuminati. E la ristrutturazione ha portato alla luce alcune scritte in latino che erano state nascoste dalla polvere e dal degrado. I lavori sono proseguiti con i lotti che hanno interessato il transetto sinistro, destro e l'abside. Sono stati inoltre avviati i lavori per la Cappella della Madonna, nella zona della nicchia. Si auspicano dei successivi finanziamenti per la prosecuzione dei lavori delle navatelle e nelle cappelle laterali. Il 29 maggio, in occasione della festa patronale, sarà inaugurata la nuova vetrata dietro l'altare e l'opera è stata realizzata dall'artista biellese Carlo Rapp, che vi ha raffigurato la resurrezione con Adamo ed Eva, scoperti da Dio nel peccato originale, la morte e la luce divina. Soddisfatto il parroco Don Pier Giorgio Colombo. È stato fatto proprio un bel lavoro, commenta il sacerdote. Adesso non ci resta che portarlo a termine. In contemporanea sono partiti i lavori per il nuovo oratorio maschile, ancora in fase embrionale. Al momento si sta ancora procedendo alla demolizione della struttura. Qui sorgeranno nuovi locali per i ragazzi e nel frattempo le attività dell'oratorio si svolgeranno nel centro comunitario di Via Venezia al numero 60. Ed ecco il programma dei festeggiamenti. I festeggiamenti per il centenario si apriranno nel giorno della Vigilia del Palio, il 29 maggio. Giorno della festa patronale della parrocchia, arriverà a Legnano Monsignor Luigi Bressan, arcivescovo di Trento, che alle 15 celebrerà una santa messa solenne. Il legame con Trento è molto forte. Infatti i tre santi, Martirio, Sisinio e Alessandro, nati in Cappadocia, furono infatti mandati da Sant'Ambrogio, vescovo di Milano, al vescovo di Trento. Quest'ultimo li destinò ad evangelizzare la parte occidentale della diocesi costituita dalla regione della Aunania, in Val di Non, raffigurata anche nell'altare della chiesa legnanese. Compito assai arduo per l'ostilità delle popolazioni. Dopo una decina di anni, il 29 maggio del 397, i tre cristiani furono uccisi. E proprio alla intercessione dei tre santi, martiri, le genti lombarde attribuirono la vittoria di Legnano. Si narra, infatti, che nel giorno dello scontro tra le milizie milanesi e il Barbarossa, tre colombe uscirono dalla chiesa di San Simpliciano in Milano e andarono a posarsi sulla croce del Carroccio, rimanendovi fino alla fine della battaglia. E la sera del 29 maggio la tradizionale veglia del Carroccio si svolgerà nella chiesa dei Santi Martiri, che da 2 anni custodisce la croce del Carroccio per le 2 vittorie consecutive ottenute dalla Contrada La Flora. Il 19 settembre, giorno della consacrazione della chiesa avvenuta 100 anni fa in quella data dal Cardinal Ferrari, 1910, la parrocchia riceverà la visita del Cardinale Dionigi Tettamanzi, che alle 10:30 vi celebrerà la Santa Messa. I festeggiamenti proseguiranno fino a settembre del 2011 con numerosi eventi e celebrazioni.